Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Ipertensione. La Società Internazionale di Ipertensione ha appena pubblicato le nuove linee guida. E in linea con noi il professor Claudio Borghi, ordinario di medicina interna all'Università di Bologna. Professore, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Professore, lei ha collaborato alla stesura di queste nuove linee guida. Qual è la novità di questa versione? Le novità sostanziali sono due. La prima è che le linee guida hanno la presunzione di applicarsi sostanzialmente a tutto il mondo, cosa che di solito non avviene con le linee guida tradizionali, che sono più indirizzate ovviamente ai paesi con un più elevato tenore di vita. La seconda è naturalmente che in queste linee guida si troveranno strategie terapeutiche ugualmente efficaci, indirizzate a chi ha maggiore disponibilità di mezzi, o strategie terapeutiche essenziali che possono essere applicate ai pazienti a basso tenore di vita. Professore, per la prima volta ci sono anche indicazioni mirate al trattamento dell'ipertensione in pazienti affetti non solo da malattie cardiovascolari, ma anche da malattie di altra natura. Certo, questa è forse una delle novità principali, perché rispetto alla popolazione che vive in paesi più evoluti, molte di queste nazioni un pochino più problematiche hanno un'incidenza elevata di patologie concomitanti delle quali tenere conto. Queste linee guida hanno un intero capitolo che è proprio dedicato al trattamento dell'ipertensione in presenza di patologie concomitanti, e abbiamo incominciato trattando le due principali, che sono fondamentalmente le malattie reumatologiche e le malattie psichiatriche. Prima di salutarla, professore, ricordiamo i numeri della pressione e i consigli per tenerli sotto controllo. Numeri della pressione sempre sotto 140 e 90 mm di mercurio, meglio se al di sotto dei 130 e 80, e per tenerli sotto controllo misurarsi la pressione sistematicamente e, quando necessario, prendere i farmaci ogni giorno. Grazie professor Borghi, buona giornata. E grazie anche a voi, e grazie sempre dell'invito. Io vi ricordo che aspettiamo le vostre storie di gratitudine a obiettivosalute@radio24.it oppure messaggi vocali 335-830-4306. Scatenatevi, la gratitudine ci aiuta a ricominciare. A dirlo non è solo il cuore, ma anche le neuroscienze, che dimostrano che questa sorta di intelligenza emotiva produce vantaggi sia a livello personale che sociale. Avanti allora, usiamo la gratitudine come un mattoncino su cui iniziare a costruire la nuova normalità. Buona giornata.